Benvenuti da Elisa e Chiara nella nostra nuova rubrica di Radio Esercito dedicata alla rivista militare. Storia, tecnologia, innovazione e società sono solo alcune delle tematiche che colorano il sommario di questo bimestrale al quale abbiamo scelto di dar voce ogni giovedì alle 11.30. Oggi ci troviamo con il primo graduato Maria Perillo per parlare di comunicazione efficace e della brevity, tra le peculiarità discorsive di Winston Churchill. Carismatici, coinvolgenti e appassionanti, i suoi discorsi sono ancora oggi fonte di ispirazione, oltre ad essere un eccellente esempio di comunicazione retorica efficace. Maria, pragmatismo e capacità di sintesi sono le due caratteristiche che rendono vincente un discorso. Cosa ci ha insegnato il passato in tal senso? Buongiorno, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Esercito. Allora, che cosa ci ha insegnato il passato in tal senso? Ci ha insegnato che il pragmatismo e la capacità di sintesi rendono la comunicazione pratica ed essenziale, puntano quindi all'essenza. Noi comunichiamo oltre a quello che sappiamo anche quello che siamo. La storia più recente ci ha dimostrato che il solo sapere non basta. A parità di conoscenze sarà sempre un individuo più carismatico, empatico e comunicativo che riuscirà a veicolare meglio un messaggio in maniera più efficace. Lo vediamo tutti i giorni anche sui social, dal successo che hanno alcuni docenti trattando delle materie che non sempre sono semplici, sono anche complesse, ma riescono a veicolare il messaggio ai giovani riuscendo a tenere sempre alta poi la soglia di attenzione e di apprendimento. Qualche tempo fa mi sono imbattuta in uno studio interessante del Time che ha stilato una lista dei 10 migliori discorsi tenuti al mondo. Tra questi troviamo quelli di Winston Churchill, Martin Luther King, Lincoln, Socrate, Kennedy, Reagan, Susan Anthony. Tutti personaggi che hanno usato la parola come arma di evoluzione di massa e ci sono riusciti perché hanno tutti quanti in comune delle doti particolari, oltre a quelle comunicative, hanno delle doti personali in comune, sono il coraggio, il carisma, la forza e poi soprattutto la coerenza. Vi deve essere un'aderenza tra il messaggio che vogliamo veicolare e l'immagine che diamo di noi. Ecco, non si riesce ad essere credibili nella comunicazione se queste azioni non collimano perfettamente con le parole e viceversa. Ecco Maria, essendo tu appunto giornalista, quali sono secondo te gli errori più comuni in una comunicazione professionale che si dovrebbero appunto evitare? Allora, la comunicazione istituzionale sostanzialmente trasmette la personalità dell'istituzione e i valori su cui fonda. Uno dei primi errori da non fare è non separare l'identità di un'istituzione dai suoi valori. Queste due cose non possono essere scisse. L'istituzione poi deve sempre tener conto che è in relazione con i membri della società in cui è presente. Quindi la comunicazione deve essere attagliata alla società, al contesto, al periodo storico. Deve quindi stare al passo con i tempi, riuscendo sempre però a conservare quella che è l'identità dei propri valori. Le istituzioni sono responsabili delle loro azioni di fronte alla società e devono sempre tenere presente il senso di responsabilità. Ci sono poi tre elementi che devono coincidere sostanzialmente nella comunicazione di un'istituzione. Quello che l'istituzione, quello che dice di essere è quello che gli altri percepiscono, quindi torniamo al discorso della coerenza e della credibilità. Nella declinazione dei valori di un'istituzione bisogna che ci sia coerenza. Se si parla di lealtà, la comunicazione dovrà essere altrettanto leale, quindi anche in caso di errore è sempre meglio ammettere l'errore e ripartire. Ok, e cosa è brevity? Allora, brevity è una nota di 200 parole che Churchill scrisse sostanzialmente per indicare ai suoi funzionari le linee guida per la comunicazione interna. Li invitò ad evitare le solite lungaggini burocratiche e le forme ampollose di comunicazione a favore di una comunicazione che fosse più sintetica e pragmatica, caratteristiche che tra l'altro facevano parte proprio di essere un uomo concreto. Sostanzialmente lui si rese conto che alla luce del grandissimo numero di documenti che il suo staff doveva leggere bisognava ottimizzare i tempi e quindi gli chiese di ottimizzare questi documenti e di utilizzare dei paragrafi sintetici di alleggerire le statistiche, le analisi specifiche, i documenti complessi in un'appendice separata e chiese di utilizzare degli abstract prima di ogni rapporto dettagliato. Chiaramente vanno tenuti in considerazione sia il contesto storico che il clima di urgenza politica in cui si operava, ecco, in quel periodo, perché la comunicazione, come sappiamo, deve andare sempre attagliata sia al target che al contesto. Nel tuo articolo citi appunto il libro di Lisa Lotti intitolato 8 secondi, viaggio nell'era della distrazione. Ecco, nel testo si fa riferimento quindi alla nostra soglia dell'attenzione che cala soprattutto a causa dell'iperconnessione dovuta dagli smartphone e dai social media che vengono minuto per minuto divorati dai nostri occhi. Quanto e in che modo ha influito l'era della distrazione, se così la possiamo chiamare, nella rimodulazione della comunicazione? Ha influito tantissimo. Noi, quando siamo iperconnessi, abbiamo la percezione di essere multitasking. In realtà siamo più distratti. L'utilizzo non consapevole dei social, proprio come mezzo di relazione, di gratificazione, può generare sia dipendenza che causare depressione. Dal punto di vista sociale, il web ci ha dato una grande opportunità, l'ha data ad ogni utente. Nella piazza virtuale ognuno può far sentire la propria voce e ha la possibilità di ricevere consenso. Questo consenso però a portata di mano, oltre ad annullare il divario socioculturale, che è una cosa positiva, ha ampliato il concetto di autoaffermazione. Quindi noi siamo sempre più coinvolti in una comunicazione autocentrata, attraverso la pubblicazione di selfie, di monologhi, di contenuti autocelebrativi. Siamo concentrati su noi stessi e sui consensi. Quindi ogni volta che poi postiamo un contenuto e riceviamo dei consensi, il nostro organismo rilascia dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore che è associato alle sensazioni di benessere. Questo avviene sia quando riceviamo dei like che dei commenti positivi e di conseguenza poi modifichiamo il nostro comportamento online sulla base dei feedback che riceviamo, e questo chiaramente ci porta ad idealizzare la nostra personalità. Enfatizziamo i pregi, siamo meno predisposti alla critica e al confronto, e creiamo un'immagine virtuale di noi che non sempre corrisponde poi alla vera personalità. In netto anticipo sui tempi, Churchill ha applicato quello che viene definito soft power, ovvero il potere della persuasione. In che misura questo potere è applicabile al contesto comunicativo attuale? Allora, il soft power è ampiamente applicato al contesto comunicativo attuale, viene utilizzato e studiato anche in funzione della diplomazia pubblica. Al riguardo vi sono molti studi. Uno dei più interessanti che mi è capitato di studiare si intitola La promozione del soft power italiano nell'era della comunicazione digitale, di Stefano Pelaggi, docente e ricercatore della Sapienza. Da questo studio emerge proprio la rivoluzione che i media digitali hanno apportato sia all'approccio che hanno le nazioni nei confronti della diplomazia pubblica, ma anche la capacità di comunicare i propri punti di forza. Questo chiaramente ha alimentato il dibattito e ha supportato in maniera positiva la rete diplomatica, ma lo vediamo anche quotidianamente nelle campagne pubblicitarie, nel lavoro di marketing e nell'attività che ci capita ovviamente di vedere sui social che svolgono gli influencer. Bene, Maria, noi ti ringraziamo davvero tanto per essere stata qui con noi, ospite ai nostri microfoni, e ci auguriamo di sentirti presto. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie, buon lavoro.